va, sì, in onda, già è bella la giornata, no? Sì, sono in Mare Mobile, è già bella sì la giornata. C'è un bel sole qua. Andrà bene mera. Mi sono salito qua a quadrata a vedere se c'era qualcuno, ma negativo. E ancora sono tutti armati la sta. Va bene, buon proseguimento allora di giornata e auguroni ancora la sta. Sentiamo, ciao, chiudo. Ciao Gio Maria, le prossime. Avanti sul canale 10, cambio.